c'è già portante, è diverso attacco. Grande. No, sì. Oh, oh, oh. Ora, ora. Bene. Ora, ora, ora. Prova. No, non sta uscendo. Ma non si muove. Sì, lui sta salendo. Sì, questo. Ora, ora, ora, ora, ora. Ora, ora, ora. Qua. Sì, va bene. Chi è avanti? Avanti su 10, chi è? Chi è avanti? C'è 90, non si capisce. Non si capisce alla radio. No, ti sento malissimo. Molto, molto male. Malissimo, malissimo, molto male. È sempre uguale. Ma che sei, Franco? No, non si capisce, no. Non si capisce quello che dici. No, ti sento malissimo, sta uscendo male in radio. Male, male, male, male. Forse adesso ci sei, vai. Ciao Giulio, mi senti? Sì, adesso sì, adesso va bene. Ma poc'anzi era incomprensibile la radio. No, non ero io allora, Giulio. Ciao Giulio, Franco, la so. Sì, ciao Fra. No, non so, c'era uno più o meno con lo stesso segnale, parlava ma non capivo, non ho capito nemmeno che fosse, per cui sarà mettendo a posto qualche microfono, non lo so. E beh Fra, come va? Benissimo, e tu? Io guarda, ho provato questa radio a vedere se sta uscendo bene di radio, perché ieri, sì, prendi. Ieri mi avevo detto che stavo facendo bassa. Bassa, è abbastanza alta. Per me va bene, poi non lo so. Sento Gabbi, sento Barretti, non lo sai che è così. Per me era la radio abbastanza alta. Ok, meglio così. Beh, adesso mi è arrivata gente. Oh, già ci sentiamo Giulio. Buon proseguo, dai. Buon tutto. Alle prossime. Ok, ciao Fra. Alle prossime, dai. Ciao, ciao. Chi era l'amico poc'anzi che usciva a male del radio? Ci sei ancora? Chi è avanti? Giulio. Ehi, dimmi. Buongiorno, cazzo, mi ci sei? Ciao, Giovanni. Ehi, sto entrando poco a baracchino, non ne ho molta voglia. Ehi, lo dici, sto qui poco. Stavo spazzolando, ho sentito la tua voce. Non sei stato salutato. Vabbè, come va, come va? Come va, dai, sempre allo stesso modo, adesso sono già un paio di giorni, ho un dolore a un braccio, è incredibile. Boh. Prima avevo una specie di, come quando uno è bruciato dal sole, no? Avevo tutto il braccio che mi faceva male, così delicato, delicato, e adesso mi fa male il muscolo, mi fa male, boh, non lo so, cosa volete dire. Poi per il resto si sa, sto sempre facendo controlli e a più non posso, adesso devo riprendere di nuovo, ma giovedì per un altro ciclo e poi vedremo come va. Ehi, vabbè, avevo stressa a un certo punto, lui ha per carità, ogni tanto non manca di mai, ogni tanto si vede. E gli posso anche tirare avanti, alla bella vita, dai, lo vedo in fatto, sì, e perché anche io, tutto più lasciato, poi per stare, ecco, mi sono addormentato anche le gambe, non si immaginava, poi per carità, ogni tanto c'è uno laggiù. Infatti è proprio così, ogni tanto ce n'è uno, boh, incredibile, boh, non è possibile. Vabbè, 79 io ne compio al prossimo mese, per cui insomma una certa età c'è, capisco anche che a a questa età non è che ci può essere sempre perfetti, perfetti, però se meglio sarebbe più conveniente, no? Oh, yeah. Oh, dai. No, ripeto, non lo so cosa sia dovuta, forse alla cervicale, questo dono all'abbraccio, cosa ne so, l'abbraccio destro, il muscolo di dietro, non il muscolo davanti, il muscolo di dietro mi fa male. Prima ce l'avevo come quando uno è bruciato dal sole, non lo sai, la pelle rimane delicata, delicata, no, basta sfiorarti che già ti fa male. E adesso quell'effetto lì sembra che sia passato. Però mi rimane questo dolore al muscolo, come lo muovo, non posso fare forza, non posso fare niente quel braccio lì. No, vabbè, passerà anche quello. Avanti Gio Maria. Ogni tanto si è venuto la fortuna, purtroppo è malato, ma si è sentato il futuro, e siamo da uno, però cerchiamo di raccoppare piano piano non si può fare niente. Se c'è qualche cosa che si può fare, si fa, e i controlli bisogna farli, per forza, no, è un guaio veramente. Non mi mettiamo, no, di tutti però, di tutti, per cui tiriamo a fare la bella musica. Va bene, giù, dai, ti ho sentito, mi ha fatto piacere, ti ho sentito e auguroni ancora, saluto la mia famiglia, ci sentiamo giù. Ok, ciao giù, chiudo. Ok, Giomali, ciao, grazie per essere entrato a salutare, mi ha fatto piacere. Sì, diciamo che quando accendo passo alle volte anche sul 23, ma non ho sentito più nessuno, e dunque evidentemente non hanno voglia, ma purtroppo è andata così, per la buona anima di Bacchiglio, eccetera, eccetera, vabbè, quello è un altro discorso. Comunque anche sul 10, boh, poca gente, e quando c'è qualcuno, sai qual è il discorso di Giovanni? E quando sto uscendo, guarda adesso questo microfono, ti piace questo, aspetta che attacco l'altra radio, ma cosa vuoi che me ne freghi? Ti sento e basta, cosa vuoi che me ne freghi a me, a te, dai, so che mi senta come esci tu, non me ne frega niente, dai, ti sto sentendo, basta, mi va bene così. Va bene, dai, ciao Gio Maria, ci sentiamo alle prossime, ciao, ciao. Sì, però faccio anche quella persona che voglia del controllo, la fa per l'altra e va bene, sa che si può controllare, scusate. Però a un certo punto più si fa, sì. La sera, durante il giorno c'è nessuno, ma la sera, dalle 5 in poi io accendo, magari anche se non c'è nessuno rimane acceso fino alle 8, poi quando entrano ci accendiamo 10 minuti, 5 minuti e poi chiudo, capisci? Però sono sempre tutto. E adesso stavo spazzolando e ho pensato, sennò non sarei entrato. Vabbè, comunque la faccio sentire giù. Non finimenti auguro ne ancora per tutto. Ciao Gio. Ok, ciao Gio Maria, grazie di tutto. Ci sentiamo alle prossime, dai. Sì, anche perché poc'anzi c'era uno che lo sentivo malissimo del radio, che non avevo capito chi era. Era con un segnale 95, 97, una cosa del genere. Però non sono riuscito a individuare chi fosse, perché non aveva un microfono messo male, per cui... Va bene, dai, ci sentiamo, Gio Maria. Grazie ancora per la chiacchieratina, alle prossime, ciao. Ciao.